Sulla cima del mondo, torre di Babele, parlo lingue diverse. Non serve il cartello, dal Colosseo a Barcellona. Parole che volano in ogni strada, ogni piazza, cultura che si scolano. Madrid mi chiama fuego nel cuore, in spagnolo sputa fiamme, ritmo che si odore. Baraja la vita, nai pe sul tavolo, parole che danzano, un gioco miracoloso. Multilingua, flusso che spacca, dall'italiano al francese senza un'attacca. Sulle strade di Parigi, graffiti e parole, ogni lingua un'arma, ogni barra un'icona. En français, je balance comme une danse. Les mots s'envolent, c'est une transe. Sous la tour Eiffel, au quartier latin, mes rimes s'allument comme un feu sans frein. Строки, холодный ветер, рифмы острые, как клинок. Режут скелет, слова как снег. На улицах падают, язык в каждом углу. Планету охватывают. In English, the vibe so international. Breaking borders, my words are collateral. London nights with the color shine. My bars connect the universal line. Back italiano, la base rimane. Parole che legano, niente catene. Uniti nel suono, uniti nel verso. Questo è il viaggio, è il mondo diverso. Flusso che spacca, dall'italiano al francese senza un'attacca. Sulle strade di Parigi, graffiti e parole, ogni lingua un'arma, ogni barra un'icona. Multilingua, flusso che spacca, dall'italiano al francese senza un'attacca. Sulle strade di Parigi, graffiti e parole, ogni lingua un'arma, ogni barra un'icona. Parole, ogni lingua un'arma, ogni barra un'icona.